L'esperienza della resistenza resterà sempre come fondamentale nella sua memoria, come la sua originalità nel rapporto col Partito Socialista, il suo partito. Lo conferma Giulio Andreotti e Antonio Maccani. Non era un uomo di partito, anzi nel suo partito aveva sempre contato poco. Cerco di essere quello che sono, con i miei difetti che sono molti, con le mie virtù che sono poche. Aveva accumulato notevole credibilità, persino l'estrema destra, cioè l'estrema destra che allora erano l'MSI, avevano per Pertini una certa deferenza e considerazione. Il 22 maggio del 1988 Pertini si presenta alla Camera Ardente di Giorgio Almirante, riconoscendo così il grande senso dello Stato del leader Missino. Questa sua natura ribelle, di uomo assolutamente libero anche dai troppi vincoli di partito, spiega tutto sommato la sua posizione di non particolare rilievo nella vita del Partito Socialista Italiano. Non fu mai ministro, volle essere libero da quel tipo di condizionamento, fu uomo delle istituzioni. Dunque Pertini ha un carattere ribelle, indipendente, insofferente ai compromessi della politica, come ha appena detto Giorgio Napolitano, ma anche un carattere che non ha paura di niente e di nessuno, pronto a affrontare qualunque emergenza con la stessa tempra e con lo stesso vigore. Eletto dopo l'omicidio di Aldo Moro e le dimissioni di Leone, Pertini deve affrontare una gravissima crisi, lo scandalo della P2, lo raccontano ancora Antonio Maccanico e Giulio Andreotti. Per Pertini fu un colpo molto duro, cioè vide subito che questa era una grossa minaccia alla democrazia, alla stabilità democratica. Ma fu molto severo Pertini sulla P2, nonostante Gelli avesse fatto, in occasione dell'elezione del capo dello Stato, una circolare invitando a votare Pertini. Io stesso l'ho ricevuta, mandò a tutti, ritengo, certamente non che avessi rapporti particolari. Chissà che calcolo aveva in mente, evidentemente non sapeva che pasta di uomo era Pertini. Per la politica italiana lo scandalo della P2 è un vero e proprio terremoto. Nella lista ci sono giornalisti, vertici dei servizi segreti, delle forze armate, molti politici, addirittura 4 ministri ed ex ministri. Pertini decide di intervenire e lo fa a modo suo. Dopo le dimissioni del governo Forlani dal Quirinale, interviene in maniera decisa e rivoluzionaria. Lo raccontano Giorgio Napolitano e Antonio Maccanico. Il Presidente della Repubblica aveva il dovere e la responsabilità di cercare le soluzioni, e di cercare le soluzioni fuori degli schemi, anche fuori dello schema la guida del governo, cioè l'incarico di Presidente del Consiglio spetta sempre a un rappresentante del partito di maggioranza relativa. Non seguì questo criterio. Sotto Pertini è avvenuto il primo esperimento di governo guidato da un non democristiano, cioè da Spadolini. Ma no, quella del governo non è stata un'impresa difficile, merci l'opera di Spadolini è andata, mi pare, piuttosto velocemente, no? Non ha suscitato contrasti e naturalmente lungo la strada ci sarà qualche deluso, c'è sempre, no? Lo stesso criterio rivoluzionario Pertini lo segue 2 anni dopo quando affida a sorpresa l'incarico a Bettino Craxi, che però non amava. Ne parlano Antonio Ghirelli, che all'epoca era il portavoce del Quirinale, e Giorgio Napolitano. La stessa scelta di Craxi dimostra quanto fosse disinteressato Pertini. Pertini non aveva alcuna simpatia personale per Craxi. Pertini ritenne che dare l'incarico, lasciar formare il governo a un socialista, potesse essere un elemento anche di maggiore garanzia per la stabilità del governo. Pertini è quindi un presidente deciso e risoluto, ma sempre attento alle procedure e ai poteri che gli ha assegnato la Costituzione. Pertini però è anche il presidente dell'Italia in un altro periodo difficilissimo, quello della lotta al terrorismo.